Eccoci qua, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat va in onda tutti i lunedì alle 13.30 e in replica sempre alle 13.30 fino al venerdì successivo. E appunto Passaggio a Nord-Ovest vuole essere una rubrica che dà voce a chi nei quartieri ci vive e ci lavora. E a questo proposito sono arrivati oggi a trovarci in trasmissione un nutrito gruppo di Rude Boys e Rifredi, e cioè... Un saluto a tutti, Giulio. Riccardo, Dario, Mattia, Andrea, Marco, Riccardo e tanti altri. Ecco appunto, Riccardo e tanti altri, e gli chiediamo subito perché il nome Rude Boys e Rifredi. Allora, diciamo che tutto nasce dalla musica principalmente, perché i Rude Boys alla fine è un movimento... che nasce un movimento culturale che nasce in Inghilterra. E io e questo mio amico, prima di scrivere il nome sulla pezza, eravamo abbastanza affogati sulla musica reggae, ska, rocksteady, e quindi era inevitabile che il nome diventasse Rude Boys, rifacendo poi, come dire, riferimento a quei criminali di Kingston e della musica reggae, rocksteady, che nasceva in quei momenti in Inghilterra tramite varie etichette discografiche come Trojan, Sharp, eccetera. Rude Boys, Rifredi. Rude Boys, Rifredi. Rifredi? Come? Motivo perché Rifredi? Rifredi è il nostro quartiere. È il nostro quartiere dove viviamo, dove svolgiamo praticamente... tutte le nostre attività, dal socializzare al vivere quotidianamente la zona. E la nostra squadra ovviamente è Rifredi. E, squadra di calcio. Squadra di calcio, certo, sì. E noi ci ritroviamo così la domenica o il sabato in base alle partite e andiamo a tifare i nostri ragazzi, portando il nome del nostro quartiere in giro per la Toscana. E poi si spera anche in Italia, ma ora sto sognando troppo. Hai parlato appunto dell'inizio sostanzialmente, no? di che nome dare a questo gruppo. Ecco, come si è sviluppata la storia dei Rude Boys di Freddy? Quando avete iniziato? Se ci sono dei passaggi particolari, ecco, in questo vostro percorso nel vivere il quartiere e la squadra di calcio? Vabbè, diciamo che tutto è iniziato nel lontano 2013 durante il derby di Rifredi Castello. Appunto io e questo mio amico ci siamo ritrovati, era un sabato freddo, noioso, abbiamo detto ma perché non andare a vedere i nostri amici, e poi alla fine quelli che giocavano erano i nostri amici, perché non andiamo a vedere i nostri amici. Quindi siamo partiti, eravamo in due, poi siamo arrivati a tre, quattro, cinque, e poi alla fine, ultimamente, stiamo diventando un bel numero. Numeri che comunque, per la piccola realtà che siamo, ci fanno abbastanza onore, ecco. Ecco, questi numeri si riuniscono anche, ecco, prendono delle decisioni in una forma assembleare, via dicendo, per le trasferte, per le iniziative. Beh, certo, diciamo che c'è un gruppo principale, ovviamente, perché se dobbiamo stare a capire tutti quelli che vogliono diventa un po' un casino. Quindi diciamo c'è uno zoccolo duro all'interno dei Rude Boys, dove organizziamo trasferte, pranzi, su come muoverci anche durante le partite, decidere i cori e così via dicendo. E cerchiamo anche di capire cosa ti fa. Ecco, dove la squadra di calcio che è in seconda categoria, prima categoria. No, purtroppo siamo in terza categoria, visto che la società è cambiata, c'è stato, diciamo, una falla nel mezzo e quindi niente, siamo ripartiti dall'ultimo gradino e adesso siamo in terza categoria e stiamo cercando di risalire. E, niente, molti anni abbiamo cercato di salire in prima, ma non ci siamo riusciti, non c'è stato verso e quindi niente, adesso siamo qua. E quindi mi dicevi prima che siete andati a tifare i vostri amici, quindi un'idea del tifo che non è propriamente quella, o se non altro è un po' diversa da quella del tifo delle squadre di calcio. Ecco, qui quello delle squadre di professionisti. Al di là del tifare anche la squadra dei professionisti, qui si tratta appunto di una sorta di immedesimazione con la squadra di calcio e quindi un'immedesimazione del quartiere la rappresenta, insomma, ecco. Quindi un tifo anche un po' diverso da questo punto di vista, oppure no? No, vabbè, è strettamente diverso diciamo, dal tifo che c'è nelle categorie più alte, come può essere la Serie A, anche perché comunque c'è molta vicinanza tra squadra e i Rude Boys, cioè noi tifosi. Molto spesso ci ritroviamo a bere insieme durante la settimana, a Frammenti, ovviamente, pub, che faccio pubblicità, perché Frammenti è Frammenti, luogo di ritrovo dei Rude Boys, ovviamente. E quindi, beh, certo, il tifo diventa molto più sentito anche secondo me, perché comunque a sputare sangue, a buttare via il fiato ci sono dei nostri amici e quindi È più sentito, è insomma. molto più sentito, certamente. E in queste, a parte le partite in casa, in queste trasferte vi incontrate oppure trovate gruppi simili ai vostri oppure siete l'unica realtà da questo punto di vista in queste categorie? Guarda, allora, in queste categorie, cioè soprattutto nella terza, ci siamo soltanto noi. Ovviamente bisogna fare riferimento alle Boschi, che certamente ha fatto Battistrada. molta strada, certo, sì. E ora loro sono in eccellenza, se non sbaglio, Promozione. Addirittura. promozione, e sono partiti anche loro dalla terza categoria. E io penso che in Toscana probabilmente siamo veramente in pochi a fare una cosa del genere. So che ci sta provando magari i tifosi dell'Antella o Grassi, no? Cose del genere. Però sono realtà comunque magari anche diverse dalla nostra. Ecco. E no, perché è interessante proprio questo rapporto sia con il quartiere sia con i calciatori. Ecco, ci potete dire qualche episodio magari significativo di questa fratellanza, ecco, diciamo, di questa attenzione, diciamo, o questo tifo più sociale? Ad esempio, molti dei giocatori che stanno giocando tuttora a Rifredi, prima di quest'anno erano con noi nei Rude Boys, quindi erano parte integrante dei Rude Boys e nostra forza motrice. Abbiamo, poi come ha detto Riccardo, andiamo spesso a bere insieme e ci danno una mano anche nell'organizzare qualche cosa. Se ad esempio come la grigliata che faremo il 22 dicembre e ci daranno mano sicuramente a montare, a smontare, a servire. Quindi grazie a loro sono una forza attiva come noi. Ecco, e il vostro interesse rispetto ai quartieri è solo rispetto al calcio oppure c'è un'attenzione anche. Ecco, come arriva uno da Palermo? Cosa gli dite? Cosa gli diresti? Com'è Rifredi? Come lo vivete i quartieri? Ecco, al di là della partita di calcio. Allora, se venisse uno da Palermo, gli diremmo innanzitutto che il nostro obiettivo principale è avere una fusione totale tra quartiere, inteso come persone che lo Che vivono lo e lo vivono. frequentano quotidianamente, con la squadra e con il tifo. E questa fusione poi viene espressa bene in attività di utilità sociale, che possono essere, come abbiamo fatto un mesetto fa più o meno, la pulizia del fiume, la pulizia degli argini del Tersolle, che è il torrente che passa vicino al nostro campo, tra l'altro. E un mese fa proprio siamo andati a ripulirlo, ovviamente un'operazione un Di po' riappropriazione. grossolana, cioè un Sì, po' certo, però generale, senza una troppo un'operazione di riappropriazione del quartiere da parte di nel quartiere civile, insomma. Esatto, essere attivi anche sul territorio e far capire che non siamo un gruppo che la domenica o il sabato non ha nulla da fare, ma vogliamo estendere la nostra attività non solo all'attività di curva, ma anche all'attività di quartiere. Siamo stati all'inizio dell'anno scorso siamo stati a parlare con il presidente di quartiere e per metterlo al corrente delle nostre idee, delle nostre iniziative, e si è sorpreso in bene di vedere tanta attività e tanta disponibilità in ragazzi così giovani, che generalmente si pensa destinati a altri hobby. O se non altro pensano che siano tifosi come qualunque, come magari che delle squadre di Serie A, insomma. Vabbè, senza nulla togliere, ovviamente anche i tifosi alle squadre di Serie A. No, non rispetto ai tifosi, ma rispetto a come vengono costruiti dai mass media questi tifosi qui. Certo, il male del calcio secondo loro non sembra sia così, infatti. E vi volevo chiedere anche se c'è anche un altro contributo. No, volevo aggiungere che ci stiamo anche impegnando a abbellire a modo nostro il quartiere con, ad esempio, con dei graffiti. Ad esempio, ci è stata data una sede all'interno di un circolo Arci che prima era disabitato, comunque lasciato un po' a se stesso. Dove? Al circolo Il Campino, che appunto si trova dietro Careggi. In via Caccini, e dopo un po' di iniziative lì, un po' di grigliate nate a Natale dell'anno scorso, e comunque ci hanno concesso, insomma, una sede lì dentro perché hanno capito il potenziale di questi ragazzi, che non volevano solo far casino quant'altro, ma creare qualcosa di bello nello spazio che abitano quotidianamente. Sicché abbiamo abbellito il posto con dei graffiti, chiaramente di ambito, insomma, calcistico. Poi abbiamo e ne vorremmo fare anche tanti altri. Ora stiamo pensando, stiamo ragionando. Poi ci siamo anche uniti a dei ragazzi, ad esempio, che portano avanti questo immaginario e questo ideale di quartiere anche nella musica hip hop. Quindi abbiamo fatto una serata a tema, diciamo, hip hop di Rifredi, sempre lì al Circolo Arci, e quindi abbiamo visto nel giro di pochi mesi un miglioramento di qualità della vita di questo circolo, che appunto se prima era lasciato all'abbandono e purtroppo anche un po' al degrado e un po' alla malavita, diciamo, ora comunque frequentato da ragazzi del quartiere, eccetera, e poi si sta creando anche tanta integrazione con anche ragazzi provenienti, ad esempio, dal Marocco, altri paesi, e comunque si sta creando davvero, dal mio punto di vista, in modo molto informale, in modo molto spontaneo, un'amicizia con tutti gli abitanti del quartiere. Poi ci sono anche tante altre idee che riguardano la squadra. Ad esempio, il campo è accanto a un centro d'accoglienza, e sarebbe bello in un modo o nell'altro interagire con questi ragazzi, e noi vediamo tutte le settimane. Vorrebbero giocare, insomma. No, più che altro è la cosa interessante, è che li vediamo guardare le partite dalle scale antincendio del centro e comunque tifare per i Rifredi. Di conseguenza, sì. Sarebbe bello anche integrarli, se questa cosa gli interessa davvero, e portarli e integrarli nella nostra normalità, senza troppe pretese, ma semplicemente dirgli: voi siete i benvenuti, siete insomma, abitanti del quartiere come noi, e quindi venite a tifare i Rifredi. E a proposito di musica, mandiamo un pezzo musicale, non è un pezzo hip hop, ma un pezzo un po' attinente all'intervista. Sono Essenza Sicura, il pezzo si intitola Non è più un ragazzo, Rudy. Guarda la luna, devi essere forte e farti valere, che parole assurde per chi non lo vuole, e non si vede. nascere ancora. Rudy non è più ragazzo, non è più ragazzo Rudy, ma ora si muove leggero per la città. Non è più ragazzo, non è più ragazzo Rudy, ma ora si muove leggero per la città. Non è più ragazzo, non è più ragazzo Rudy, non è più ragazzo. Eccoci qua, riprendiamo la trasmissione, prendiamo l'intervista. Ricordiamo che appunto Passaggio al Nord-Ovest va in onda dal lunedì al venerdì alle 13.30. Lo potete ascoltare come tutta Radio Wombat, wombat.roblox.org in streaming. La potete ascoltare anche su AM, le onde media, sull'1359, e potete riascoltare le trasmissioni di Passaggio al Nord-Ovest e tutte le trasmissioni di Radio Wombat. Lo potete riascoltare in podcast andando alla riascoltare oppure scaricare e riascoltare successivamente andando alla pagina apposita di Radio Wombat, la pagina podcast, che appunto è sempre sul sito wombat.roblox.org. C'è anche un account Twitter, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, l'email nel caso ci volete dare dei consigli, complimenti, anche insultarci, ma questo preferiremmo di no, posta@wombat.net. E riprendiamo la trasmissione, l'intervista, Rude Boys Rifredi, e volevo fare un piccolo passo indietro, dove appunto parlavamo del tifo, delle forme del tifo, e gli volevo chiedere appunto una loro opinione, cosa ne pensano appunto di questo tifo ultra criminalizzato e il rapporto insomma con il calcio moderno, perché mi sembra di capire anche rispetto a come si muovono, rispetto appunto al tipo di tifo che fanno, il rapporto del quartiere, che insomma una sorta di, se non di critica, insomma, una sorta di tirarsi fuori, ecco, da questo, da celebrare questo calcio moderno, ecco. Sì, noi quando abbiamo iniziato nel 2013 non avevamo assolutamente nessuna idea di protesta, di manifestazione collettiva, né niente, ma semplicemente di divertirsi, di passare in maniera alternativa un sabato pomeriggio, perché allora giocava il sabato pomeriggio la squadra degli Juniores, erano i nostri amici, e quindi senza assolutamente secondi fini o senza idee grandi. Piano piano, tra una cosa e un'altra, un giorno si fece le bandiere, un giorno si fece le sciarpe, l'anno dopo si fece il tamburo, l'affluenza iniziò a aumentare, e mano a mano anche i ragazzi che andavano in Curva Fiesole, perché molti di noi militavano in Curva Fiesole anche in quel periodo, molti hanno deciso di staccarsi da quella realtà e di proseguire abbracciando la nostra. E questo all'inizio senza di nuovo pensare in grande contro il calcio moderno, a qualsiasi tipo di manifestazione di questo tipo, ma semplicemente perché avevamo ritrovato il divertimento e la passione. E, in seguito, abbracciando anche ragazzi che col calcio non avevano nulla a che fare e che del calcio non gliele fregava assolutamente niente, abbiamo visto che la nostra idea, la nostra iniziativa raccoglieva consensi, perché era un modo puro di tifare, puro di sostenere la squadra, quindi proprio al di là del risultato, senza lasciarsi condizionare dall'esito della partita e senza lasciarsi condizionare da un mondo che adesso sta attraversando il calcio moderno, che è sempre più malato e sempre più legato ai soldi. Adesso ci sono dei cari di biglietto per le trasferte pazzesche, e quindi piano piano noi abbiamo iniziato a pensarle in questo modo, abbiamo iniziato a dire ma perché uno per andare a seguire la propria squadra deve essere considerato un criminale, deve pagare fior di quattrini per andare a Sassuolo, deve fare le trasferte di martedì sera, eccetera eccetera, e abbiamo deciso di stringersi intorno a questa realtà che riabbracciava il calcio popolare per come era nato. E quindi abbiamo visto che questa cosa ha raccolto consensi, è piaciuta, perché ci si diverte, perché chi viene in curva con noi si diverte. Semplice, semplice, e senza... Si diverte, semplicemente. Non so, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questo, in questo ambito. Ecco, io intanto vi voglio chiedere, una precisazione chiedo anche io, nel momento in cui c'è un DASPO sportivo, il divieto di accesso è a tutte le manifestazioni sportive? Tutte le manifestazioni sportive, anche per, repressiva molto pesante, anche per la terza categoria in teoria, quindi chi ha il DASPO sportivo non può venire nemmeno a vedere le partite di Freddy. E mi dicevi appunto, come si è incrostato, ma il rapporto con il vicinato, intendendo come vicinato in questo caso gli abitanti, ecco, come è vista questo sostenere la squadra e nello stesso tempo sostenere i quartieri? Ma allora, 362 giorni l'anno ci adorano, quando facciamo le grigliate e disturbiamo, allora magari qualcuno si lamenta. Però a parte questi due o tre giorni di smanio, poi per il resto ci apprezzano, perché hanno capito che facciamo del bene. Quando siamo stati a pulire il fiume, come appunto detto prima, notavamo i passanti, quelli che si affacciavano sui ponti, che ci incitavano, che dicevano grazie, grazie per quello che fate, possiamo darvi una mano, e poteva essere un sacco, oppure aiutarci a buttare lo sporco, chiedevano come unirsi alla prossima iniziativa. Quindi hanno capito che siamo attivi e che vogliamo esserlo, come ispirazione per il quartiere. Anche perché Rifredi, magari per chi lo vede dall'esterno, oppure per come sono le cronache dei giornali, sembra sempre sia come tutti i quartieri popolari, no? Ne abbiamo parlato solo in termini o molto spesso di invivibilità e via dicendo, però nelle pieghe del quartiere c'è sempre spazio, specialmente per chi ci vive, insomma, a esercitare una socialità altra, ecco, magari. Sì, il nostro obiettivo infatti è ritrovare i punti di socializzazione che non siano i social network, quindi Facebook, Instagram e WhatsApp, ma ritrovarsi in circolini, come si faceva una volta, la sera, davanti a una birra, a fare due chiacchiere, e parlando della settimana, poi noi lo contestualizziamo alla nostra partita, alla nostra attività, però circoli e quartiere come punti di riaggregazione popolare per tutti. Volevo anche aggiungere che insomma ci siamo legati molto a un pub di quartiere, poi ammetto di essere tra virgolette l'ultimo arrivato e sono anche il... quello che abita un po' più lontano, non sono proprio di Rifredi, però sono più vicino a Novoli questa è una cosa, è un aggravante molto pesante, però mi considero un baluardo e una spia in caso di agguati, no scherzo. Comunque, no, quindi ci siamo stretti insomma attorno a un pub che in questo caso è Frammenti e Trame, c'è una storia decennale, che è un circolo WISP, certamente, e praticamente la particolarità di questo pub è che è diverso da tutti i pub che possiamo trovare nella città di Firenze, la città vetrina, mercificata, dove si va solo a bere, a spendere soldi e dove spesso e volentieri il cliente è un mero consumatore, sono spesso anche turisti, per quanto possano essere anche molto belli i pub in centro, però non sono realmente vissuti. Beh, questo è un pub vissuto, è un pub dove sui tavoli ci sono i giochi da tavolo, dove non si paga e c'è un rapporto anche con i lavoratori, ci sono persone di tantissime età diverse, ceti sociali diversi che vengono lì a bersi una birra tutti insieme, ci si conosce, dove si festeggiano i compleanni collettivamente anche se non sai chi è il festeggiato, eccetera eccetera, e quindi insomma una cosa proprio, diciamo, dal mio punto di vista, e sono abbastanza giovane, secondo me è un ideale molto old school e bello di socializzazione, e per di più è anche proprio in mezzo ai palazzi, e questo lo rende ancora più affascinante, perché appunto è un circolo non è il circolo fighetto del centro, esatto, non è assolutamente paragonabile a qualsiasi tipo di circolo del centro. Inoltre lì spontaneamente, appena abbiamo voglia, si possono organizzare insomma cene e cose, ci si mette d'accordo. Comunque è appunto è molto diverso da ogni tipo di attività commerciale che possiamo trovare in centro a Firenze. Poi volevo aggiungere che da quest'anno Frammente è diventato anche lo sponsor ufficiale della nostra squadra, quindi da questo si capisce il legame che abbiamo con questo posto. Tutti i tirifredi e tutti i lavoratori disoccupati, o comunque insomma siamo lì, ecco. Studenti? Sì, siamo anche, diciamo, fra di noi ci sono, diciamo, le personalità più varie in questo senso. Ci sono studenti, per esempio, io sono uno studente, altri ragazzi sono studenti, c'è chi lavora, insomma, ci sono chi non lavora. Non ci sono dirigenti d'azienda. Non ci sono dirigenti d'azienda. Volevi dire qualcosa? No, io volevo aggiungere sempre sul discorso del nostro pub, che magari a differenza di un pub del centro, appunto, dove il gestore vede entrare questi mostri definiti tifosi che magari potrebbero spaccarti il locale, a noi ci conoscono, ci vogliono bene. Infatti un saluto alla Patria e al Curi, che ogni volta ci danno tantissimo da bere e ci vogliono tantissimo bene. Abbiamo fatto una pezza noi da messa all'interno del pub, con scritto support your local pub, firmato Rude Boys Rifredi. E insomma anche i gestori ci conoscono e ci vogliono molto bene, e noi vogliamo molto bene a loro. Io volevo un attimo soffermarmi un attimo su quello che si era detto prima, e volevo aggiungere che a me personalmente fa molto piacere rivedere ragazzini magari più piccoli di noi, perché comunque tra virgolette che seguo la squadra, sì, in questo senso squadra, qui, insomma, e mi fa insomma un attimo rivedere me da più piccolo, che ci sente insomma per la squadra, che va lì per tifare, principalmente per vedere i suoi amici e divertirsi insieme. E vi volevo chiedere, prima parlavate rispetto a questi ospiti lì vicino che seguono la partita da mi sembra di capire appunto che l'antirazzismo è nelle vostre corde. Sì, il razzismo non dovrebbe essere nelle corde di nessuno, ovviamente, ma soprattutto in una realtà di calcistica la politica non dovrebbe proprio entrare, nemmeno essere discussa. Infatti quello che facciamo noi, e quindi questo discorso dell'antirazzismo comunque è assolutamente condiviso da noi, assolutamente antirazzisti, certo. La nostra caratteristica principale appunto non è quella di seguire ideologie politiche, ovviamente. Il nostro credo, come abbiamo scritto anche nel nostro manifesto, è Rifredi, ovvero il quartiere dove siamo nati, dove stiamo crescendo, e cerchiamo di farlo crescere insieme a noi. Sì, certo, tutto ciò ovviamente preclude anche un rispetto reciproco, e quindi di conseguenza il razzismo non è ben accetto, e fortunatamente insomma non vediamo mai episodi di questo genere, e siamo anche i primi a ostacolarli. Sì, infatti sempre su questo, come ha detto prima anche Riccardo, il nostro credo è Rifredi. Chi ci abita indipendentemente dal colore. Esattamente, noi vogliamo il bene del quartiere. All'interno del quartiere un clima razzista non è sicuramente una cosa che fa bene, anzi, crea guerra e disagio per tutti. Quindi da questo punto di vista siamo tutti fermamente convinti che il razzismo non serva assolutamente a niente. Prima parlavate, avete fatto le grigliate, ne farete anche prossimamente, ce n'è una in particolare nei prossimi giorni. Sì, nei prossimi giorni abbiamo una grigliata il 22 dicembre, peraltro prima della grigliata ci sarà anche una trasferta a Fucecchio, a cui andremo come sempre, e poi subito dopo, appena finita la trasferta, saremo lì a organizzare la grigliata, accendere il fuoco, apparecchiare. E ovviamente la grigliata comprende un menù da gourmet, chiaro, come sempre. E carne in quantità, anche ovviamente abbiamo pensato anche a chi la carne non la mangia per le proprie scelte. Infatti beve solo il vino. No, abbiamo anche l'alternativa vegetariana, e ovviamente per un prezzo modicissimo. Io ritornerei un attimo anche Trasferta Fucecchio, chi c'è di chi? Sinceramente non ho un panorama ben preciso di questa terza categoria, girone L, che squadre ci sono? Ecco, che, per dare un'idea, insomma, diciamo, c'è anche Castello. Siamo finiti nel girone di Empoli, quindi siamo tutti contro squadre di Empoli. Non so, c'è per esempio Avane, l'ultima che mi viene in mente, Fonzano, famosissime, posti che tutti conoscono, vabbè, Fucecchio, che forse la trasferta, tutte squadre che comunque neanche noi abbiamo mai incontrato perché non siamo mai rientrati. Questo sta un po' anche a significare che per voi l'importanza è sostenere la propria, indipendentemente da... No, esatto. Beh, questo ha anche i suoi lati positivi, cioè che abbiamo avuto l'opportunità di fare delle trasferte in treno, che sono la cosa più divertente che possa esistere, perché insomma un'orda di tifosi che occupa un vagone è sempre un bello spettacolo, facciamo sempre divertire i passeggeri, al contrario di quello che vorrebbero far passare i media, insomma, anche i controllori, abbiamo avuto un bellissimo... L'ultima volta il controllore è stato molto, molto simpatico con noi, gli abbiamo offerto del vino, si è chiacchierato del più e del meno, quindi insomma è stata una bellissima trasferta quando siamo andati dov'era? A Empoli comunque. E, sì, ci siamo divertiti da matti. E abbiamo un altro pezzo musicale, anche questo abbastanza in tema. Sono i Clash, il pezzo si intitola Rudy Can't Fail, Rudy non può cadere, non può andare. avete parlato di questi trasferti, ecco, come sono organizzate? Che succede dal giorno prima, la preparazione, il giorno stesso? Ma innanzitutto le trasferte le prepariamo nel momento, nel giorno dell'assemblea che ci ritroviamo e mettiamo a tavolino la distanza della trasferta, le macchine a disposizione, quindi tutti i mezzi, i motorini eventuali se la trasferta è vicina, il che è sempre da preferire perché la trasferta ha tutto un altro sapore, però insomma se no le macchine o un treno eventuale va benissimo e poi decidiamo come organizzarsi sull'orario, sugli eventuali pranzi, perché purtroppo giochiamo spesso alle 2:30, quindi che è l'orario di sabato. Di sabato o anche di domenica, che è l'orario più infame che è possibile. La porchetta al seguito, insomma. Inevitabile, tegamino o porchetta. E quindi ci impone di ritrovarsi orari abbastanza presto, di domenica o di sabato, pranzare insieme eventualmente e poi partire alla volta del paese sperduto di turno. E decidiamo a chi spetta il compito di tenere le pezze. Noi infatti adesso, grazie all'autofinanziamento che viene reso possibile dalle grigliate, siamo riusciti a fare da noi gli striscioni, le bandiere, le sciarpe, le pezze, e poi tramite il materiale riusciamo a incrementare il fondo comune che ci serve, eventualmente anche per pagare multe, perché purtroppo il discorso che vale per la Serie A, per i campionati maggiori europei, vale a livello anche di terza categoria, quindi un fumogeno acceso 500 euro di multa. E sono cifre che fanno la differenza a questi livelli, e quindi servono, questi fondi comuni sono alla fine dei paracadute, ci servono per sicurezza, per non trovarsi a sborsare di tasca propria poi soldi importanti. E quindi una volta stabilite tutte queste cose partiamo, il responsabile delle pezze le tiene custodite, perché insomma, tenere perdere la pezza in trasferta o farsela soffiare, sappiamo tutti che... Ecco, la pezza io lo so, ma magari chi ascolta non sa bene cosa sia. La pezza è lo striscione, uno striscione che può essere in qualsiasi materiale, noi li facciamo in tela, generalmente li facciamo con la vernice, con il proiettore si ricalca l'immagine e poi si dipinge a mano per renderlo più nostro. Abbiamo due pezze che si porta in trasferta, una è la Ruth Boyd Seri Fredi, sfondo nero, e scritta circolare, e poi l'altra, la Rifredi, puro, così, abbastanza grossa, proprio per significare senza giri di parole, Rifredi, e quindi insomma che hanno un'importanza decisa in trasferta, vanno custodite. In casa che succede? Vi trovate lì alla partita? In casa l'orario è lo stesso, quindi mettiamo ritrovo direttamente al bar, che adesso non c'è più, quindi onore a loro e l'hanno levato. E adesso c'è un distributore automatico, quindi ci ritroviamo al distributore automatico alle 1:30, generalmente se la partita alle 2:30, alle 1 anzi, che non dà nemmeno le birre, quindi al distributore automatico per l'acqua. E poi minori di 18 anni. Esatto, esatto. In molti sono lì ancora a provare di prendere i Negroni, ma non esce, lo assicuro. E poi ci saliamo, prendiamo possesso degli spalti, appendiamo le pezze, cercando di essere in orario con i tempi, perché poi trovarsi con la squadra già in campo e noi ancora a sistemare tutto è bruttissimo. E, bandiere messe sulle canne da pesca, e lunghezza 7 metri, mi raccomando, 6 o 7 se non trovate la da 7. E nulla, all'inizio della partita siamo pronti e parte il primo coro. C'è qualcosa, me lo dovete dire anche un po' voi, perché è un po' una realtà un po' atipica, ecco, nel panorama sociale della città e del quartiere. Sempre riguardante le pezze, volevo dire che noi diamo molta importanza a questa norma consuetudinaria, questa norma non scritta, diciamo, la quale prevede lo scioglimento del gruppo una volta persi i propri vessilli. E infatti noi in trasferta, diciamo, la priorità è quella sempre di difendere le pezze, di guardarle, di osservarle, cioè senza che l'avversario possa avere l'opportunità di rubarcene. E questa regola, diciamo, si rifà un po' al mondo ultras delle, diciamo, del, non del calcio popolare, ma del calcio un po' calcio professionista, e quando infatti molte tifoserie hanno perso il proprio gruppo, la propria identità, per la perdita della propria pezza. E questo rappresenta il disonore più grande nel mondo dei tifosi, dalla Serie A alla terza categoria. È un po' come perdere, diciamo, è come l'identità. I Ronin dei samurai, cioè perdere l'appartenenza al proprio padrone, è un po' come perdere la pezza per un ultras. Per l'organizzazione, comunque, durante la partita non abbiamo gerarchie, non volevamo imporre dei ruoli fissi in maniera esagerata, essendo troppo ligi. Ci sono dei ruoli per... Comunque deciso in assemblea. Esatto, ovviamente in pubblica piazza. E c'è il lanciacori, il vice lanciacori, e poi lo zoccolo duro che tiene le fila del... E tiene in ordine il tifo durante la partita, poi per il resto non c'è una grande rigidità. L'ultima cosa che volevo aggiungere è una cosa buffa, perché prima dentro la società di Rifredi c'erano due tifoserie, c'erano i Rude Boys Rifredi e gli Hooligans Rifredi. I Rude Boys Rifredi erano i ragazzi più grandi, quelli di età del 94-95, mentre gli Hooligans Rifredi eravamo noi, che siamo i ragazzini più piccoli, noi, una parte di noi, ragazzini più piccoli. E mi ricordo una volta, durante una partita in casa, che c'era anche astio fra le due tifoserie. Addirittura i Rude Boys facevano cori contro gli HR e gli HR facevano cori contro i Rude Boys. E trovarsi oggi tutti insieme in questa bellissima realtà è una cosa spettacolare. Tanto per capirsi, in Toscana ci sono pochi tifoseri organizzati a questi livelli. Ecco, i Rifredi nel 2013 ne aveva due. Senti, prima parlavate delle Boschi, ci avete contatti? Con i ragazzi delle Boschi c'è tanto rispetto dalla nostra parte, sicuramente. Però sono in categorie molto più... Su tutti i fronti sono a livelli più alti, sono categorie più alte. Loro hanno scritto una pagina importante di calcio popolare, di storia appunto. E quindi tanto, tanto rispetto e tanta stima. Abbiamo iniziato magari anche sulla falsariga loro, però ovviamente mantenendo la nostra identità e mantenendo la nostra tipicità. Con loro ci sono dei rapporti, spesso andiamo alle loro iniziative, loro vengono alle nostre, e quindi, perché sarebbe assurdo non avere buoni rapporti. Sì, secondo me c'è anche da aggiungere che... sono anche due percorsi ben distinti e separati, cioè loro comunque hanno un percorso che nasce da un certo tipo di ambienti, è un percorso proprio sociale, loro hanno fatto anche un percorso con la società, hanno acquisito la società, quindi insomma hanno un tipo di percorso. Noi invece abbiamo un percorso legato a un luogo fisico, a un quartiere, quindi anche tra virgolette il target, il loro è di un certo tipo, riferito a certi ambienti, riferito a una subcultura eccetera, il nostro in generale a un quartiere, agli abitanti di un territorio. E insomma, ciò non toglie, c'è davvero un grandissimo rispetto reciproco. E poi sì, volevo aggiungere un'altra cosa, sempre sull'età delle nuovissime leve del Rifredi. Ora stanno venendo un sacco di giovani ragazzini e ragazzine che ci piace vedere sugli spalti anziché a socializzare sui social network. A non insomma. Socializzare. Esatto, a non socializzare. E gli stessi ragazzi li rivediamo anche nel circolo, e questa è la cosa bella, che li abbiamo conosciuti sugli spalti e iniziano a frequentare il circo, quindi stanno dando animo anche al quartiere. Quindi, cioè, l'aggregazione si forma sugli spalti, viene trasportata anche, diciamo, ai di fuori delle due ore della partita. Sì, infatti è così, come li ritroviamo al circo, li ritroviamo al pub a bere la sera, e quindi sta diventando un'aggregazione forte anche se è iniziata da poco tempo. Sì, naturalmente noi abbiamo parlato tanto di territorialità, di appartenenza al quartiere, di attività sul territorio, ma i ragazzi che vengono a vedere il Rifredi non sono necessariamente di Rifredi, non stanno necessariamente nel quartiere 5, tutti sono ben accetti, tutti coloro abbracciano la abbracciano il senso nostra... del tifo, ecco quello sì, che accomuna. Alla base c'è l'appartenenza al quartiere, che poi ovviamente è partita così, ma adesso è allargata al concetto di tifo. A un tifo e a una socialità attraverso il tifo. Insomma. Che purtroppo non, si è perso da tante parti e che noi volevamo ritrovare dal basso. Sì, infatti sempre riguardo a questo argomento, anch'io sono uno degli ultimi arrivati, io sono arrivato un annetto fa, e anche solo rispetto a un anno fa, adesso andando in giro per il quartiere vedo molti ragazzi, molte ragazze con per esempio la nostra felpa, ed è una cosa che comunque fa molto piacere, perché vuol dire che le persone all'interno del quartiere sanno chi siamo e gli piacciamo comunque, perché sennò non si metterebbero la nostra felpa, e questa è una cosa che a me personalmente mi fa sentire molto bene. E prima detto socialità dal basso. No, per fare, parlavo del... Dal basso, no, perché è un termine che anche noi alla radio, ecco, piace, nel senso che non è, nello stesso momento non è imposta e diciamo parte dalla base, insomma, da uno strato popolare. Il calcio nasce popolare, quindi raccatta gente dal basso, tra virgolette, e se rimane vissuta con questo spirito, è bello, ed è lo sport più bello del mondo. Ah, l'ultima cosa, da noi le donne possono venire in curva, non ecco, siamo la curva della Lazio. Aspetto, appunto, prima si è parlato un po' del discorso dell'antirazzismo e quindi anche questo caso dell'antisessismo. Ecco. Vabbè, sarebbe assurdo pensare come, vabbè, non facciamo quello. Ma è assurdo per noi, ma insomma. Sì, esatto, per alcuni no. Per troppi non è assurdo. Ecco. E vi ringraziamo. Noi ringraziamo. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito. Rio dei Boys Rifredi, ricordiamo la grigliata. Il 22 dicembre. Prima c'è la partita a Fucecchio. Quindi, per chi è sintonizzato e si sta chiedendo come raggiungere il posto, noi ci ritroviamo. Al Campino, come sempre, al Circolo Le Panche. E poi partiamo alla volta di Fucecchio. Poi torniamo grigliata tutti insieme. La grigliata inizia alle 8:30. E siete tutti invitati. Prendete prenotazione, perché poi i posti finiscono. Dovrebbero essere un 130-150. Sì, come ha detto il mio amico, venite a questa grigliata, perché insomma il divertimento è assicurato. E la giornata sarà abbastanza lunga, perché lunga, comunque abbiamo inizia la trasferta, mezzogiorno per voi, e quando comunque inizia noi mezzanotte, andremo lì saremo molto contenti, perché comunque sono sicuro che si svolgerà nel migliore dei modi. Ecco, finisce qui questa puntata di Passaggio al Nord-Ovest. Ricordiamo, oltre alle 13:30 il lunedì, anche gli altri giorni fino al venerdì, sempre alle 13:30, e che la potete riascoltare questa, come le altre puntate Passaggio al Nord-Ovest, come tutte le trasmissioni Radio Wombat, tramite podcast, andando alla pagina podcast della radio, wombat.unoclox.org. Appunto, c'è anche, oltre a tutte le altre cose, c'è anche la pagina podcast. Ci sono anche il palinsesto, le informazioni su tutte le trasmissioni, soprattutto lo streaming e tutte le ultime notizie riguardanti la radio. Ciao ciao! Ciao a tutti! Grazie mille, ciao, grazie!